ricordati come eri vestita e come sei uscita e come mi sei corsa incontro quel giorno. Ricordati com'era la strada bagnata di pioggia e come mi hai preso per mano quel giorno. Ricorda come sei inciampata perché tu non sai camminare sui tacchi e come ti sei appoggiata più forte al mio braccio per non cadere. Ricordati il film che abbiamo veduto e poi tutto quello che abbiamo vissuto quel giorno. Quel giorno che era un giorno come tutti gli altri, ma tutto è cominciato quel giorno, quel giorno. Ricorda come sei inciampata perché tu non sai camminare sui tacchi e come ti sei appoggiata più forte al mio braccio per non cadere. Ricordati il film che abbiamo veduto e poi tutto quello che abbiamo vissuto quel giorno. Quel giorno che era un giorno come tutti gli altri, ma tutto è cominciato quel giorno, quel giorno, quel giorno, quel giorno, quel giorno.